Allora io piano piano abbasso, perché ho raggiunto anche il mio mitico compagno Weichafe poeta. Pippo, mi senti? Sì, si sente. Che fai, ridi? Sì, mi fa troppo ridere. Ormai il tuo cognome diventa sempre più lungo. Prima eri Pippo, grazie, prima eri Pippo, poi Pippo poeta, mo Pippo Weichafe poeta. Sì, vi ringrazio, grazie a tutti e a tutte questa, appunto, questa opportunità, di oltre al piacere che c'è sicuramente nel sentirti. Senti Pippo, di solito noi parliamo di così, di queste cose potentissime che tu organizzi. Così, insomma, diciamolo che senza di te si farebbe la metà di quello che accade, soprattutto in quel della Puglia, ma non solo. Ma diciamo che oggi siamo qui, diciamo, in quanto Pippo presentatore anche, insomma, perché non è una, diciamo, è chiaramente un'iniziativa di lotta, diciamolo che niente di ciò che facciamo è slegato dalla lotta. Però in questo caso, diciamo, è sicuramente una pratica antica, ma poco sempre meno praticata, parliamo della poesia. Infatti, appunto, adesso bando alle ciance, questa quarta edizione del Festival Internazionalista della Poesia Rivoluzionaria. Allora, io vorrei che tu cominciassi dall'inizio, perché io so che tu nasci, diventi poeta, praticamente quattro cose hai fatto nella vita: sei nato, sei diventato poeta, hai fatto le Brigate Poeti Rivoluzionari e poi sto festival. No, scherzi a parte, però, se ci vuoi raccontare un po' come nasce questo festival e soprattutto appunto il tuo anche percorso con la poesia in particolare, perché comunque sei un po' diciamo l'organizzatore di questi poeti sovversivi, ecco. Grazie per i poeti sovversivi. Allora, praticamente, vabbè, Brigate Poeti Rivoluzionari è un movimento internazionale, internazionalista di poeti militanti che utilizzano l'arma del microfono, della penna, quindi della poesia, non solo scritta ma anche cantata, recitata, rappata talvolta, per appoggiare le lotte già esistenti, in quanto come cioè, in realtà uno degli obiettivi del movimento è, oltre a quello appunto della rivoluzione e della sconfitta del capitalismo, è quella di far ridiventare la poesia un nuovo media, perché anticamente comunque, cioè, il modo che aveva il popolo per comunicare le notizie erano appunto il teatro e la poesia, che poi è una cosa che sembra così slegata da noi, però in realtà non lo è. Cioè, magari è slegata da noi in Europa, in Italia, perché ad esempio durante la guerra civile spagnola la poesia aveva un ruolo fondamentale proprio anche nella propaganda politica. Ci fu un'esplosione artistica che ha lasciato il segno nella storia, così come quello che sta accadendo attualmente, io me ne accorgo, in Sud America. La poesia è un aspetto molto fondamentale della lotta di quello che sta accadendo, dei processi di cambiamento della società, dei processi rivoluzionari. La poesia è al centro di tutte queste situazioni. Beh, infatti, sicuramente poi io credo anche che la narrazione, adesso guarda, poi tu mi tappi la bocca, però sicuramente, per esempio, io quello che ho visto in Sud America, no? Mentre noi abbiamo la poesia e poi c'è quella poesia del pop, no? La poesia poi si è suddivisa perché è nata così, è nata questa cultura, il popolo si è diviso tra chi poteva studiare e chi no. Il volgo è sempre rimasta quella rima facile che a volte poi finisce cantata, quindi penso al giullare Guccini, penso a questa maniera di narrare la quotidianità in rima, in versi, ma casomai accompagnati da una chitarra, che è un po' quello che succede in Sud America col corrido, e quindi diciamo anche quella è poesia musicata, quindi sì, diciamo che i capillari poi della poesia possono essere infiniti, credo. Infatti, cioè, quando durante il periodo del lockdown, che in Cile erano entrati in sciopero della fame i prigionieri nel carcere di Angol, no? Sì. Nella mobilitazione che lanciarono, loro chiesero una poesia, una canzone. Una canzone in solidarietà a quello che stavano facendo, così si sentivano fortificati nello spirito e potevano avere la forza di continuare a lottare. A me sinceramente questa è una cosa che mi ha colpito parecchio. Cioè, in realtà, cioè, loro sì, sicuramente loro saranno stati fortificati nello spirito, ma anch'io da qui, certo, sono stato fortificato da quella richiesta che hanno fatto, perché ho detto Oh cavolo, allora cioè, non è inutile quello che stiamo facendo noi come poeti, come movimento artistico, cioè addirittura richiedono che ci sia una lotta del genere, i prigionieri, il sciopero della fame, poi non chi cioè l'ultimo arrivato, così voglio dire. E niente, quindi comunque noi siamo un movimento internazionale, tra i fondatori vede Jack Hirschman, uno dei, credo l'ultimo dei poeti della Beat Generation rimasto in vita, Beat Generation a cui lui si dissociò perché lo riconobbe subito come movimento borghese, come rivoluzione borghese, per andare a fare attivismo militante assieme ai Black Panther, quindi un'impostazione molto militante del, del movimento, e niente, io circa una decina d'anni fa sappi che c'era Jack Hirschman che veniva qui in Puglia per presentare un libro e lo voglio andare a conoscere, e niente, parlando con lui, che poi fu troppo carino perché mandò a quel paese le autorità che c'erano, tra cui il vice sindaco, insomma, no, i giornalisti, e lui volle passare quella mezza giornata con me, con un'attrice, con un'altra poetessa che saranno anche loro presenti a questa edizione del festival, perché dice ma io voglio stare con loro, io sono come loro, non voglio stare con voi. Grazie. Quindi questa cosa mi colpì parecchio, e parlando appunto con Jack Hirschman, io stavo, era tanto tempo che cercavo di capire come poterlo utilizzare, questo mio talento, questa mia dote artistica, se la vogliamo chiamare così, di scrittura, in un modo che non fosse fine a se stesso, che non fosse pure estetica, che non fosse autocompiacimento, ma in un modo che fosse utile, non soltanto per me, ma per la società. E parlando con Jack Hirschman, lui mi disse, oh, ma lo sai che io l'anno scorso ho fondato questa cosa qua negli Stati Uniti? E io, cioè, come se mi si, cioè, mi illuminai proprio, cioè, dissi, cavolo, ma vedi, questa è la cosa che volevo fare io. E dopo tanti anni di lavoro dietro alle spalle, passando attraverso anche un collettivo interdisciplinare di improvvisazione, cioè in cui erano rappresentati un bel po' di arti, che si chiamava Gemin Calcio, fondato con altri compagni artisti pugliesi, insomma, dopo, attraverso vari percorsi, si arrivassi, il progetto è nato, era maturo, era il momento per fondare le Brigate Poeti Rivoluzionari in Italia, quindi comunque c'è un lavoro alle spalle di parecchi anni, tra cui soprattutto quella di decostruire i poeti. Andavano innanzitutto decostruiti i poeti e poi si potevano mettere le basi per fare qualcosa assieme. Beh, insomma, e com'è andata la questione? Tu immagino fossi già in contatto con altri poeti e non allora, dubito che anche tra i compagni ne esistano, insomma. Allora, la prima chiamata alle armi fu in un'iniziativa che avevamo occupato da pochi mesi, l'ex caserma liberata, e io feci una chiamata nazionale per avere le poesie che fossero in qualche modo solidarie, antirazziste, antifasciste, contro la guerra, in difesa della madre terra, no? Già una prima richiesta, diciamo, di poesie specifiche su alcuni argomenti. E a quella cosa, perché dovevamo fare un'iniziativa in caserma che riguardava anche la poesia, e dovevamo creare questa installazione permanente all'interno del caserma liberata con tutte queste poesie che ci sono arrivate da tutta Italia. E a quella chiamata hanno risposto in tantissimi, tutti super entusiasti. Cioè, all'epoca non c'era nemmeno la pagina Brigate Poeti Rivoluzionari, quindi tutto fatto in modo personale, così, ma anche semplicistico, cioè senza nemmeno pensare che cosa si stava iniziando a creare per davvero. E niente, di lì poi si è deciso di creare il movimento invitando Jack Hirschman anche a un'iniziativa in caserma, in modo tale che tutto il collettivo, anche perché come lo riusciva a spiegare lui che cos'era la poesia militante, sicuramente lo spiegava 3000 volte meglio di me, anche perché parliamo di una persona che è perseguitata politica negli Stati Uniti per il suo attivismo poetico e militante, cioè gli viene negato qualsiasi diritto, anche economico, pensioni, nonostante lui sia molto anziano e non riesce quasi più a camminare, però è tuttora un perseguitato politico perché non si è mai venduto. Quindi ho fatto sì che fosse lui a spiegare al collettivo cosa fosse questo progetto di poesia militante che ci avevo anch'io in mente, e di lì è nato il movimento, e nel giro di poche settimane si è scatenato proprio un entusiasmo in tutta Italia, cioè sono nate varie cellule poetiche sparse per tutta Italia, così quasi in modo spontaneo, cioè così come è uscita la cosa Brigate Poeti Rivoluzionari, ci volevano entrare tutti in questo movimento, a quanto pare c'era proprio una voglia diffusa di un certo tipo di poesia, di un certo tipo di impegno politico pure, che fosse un attimino un po' più serio rispetto a quello fatto finora, proprio di metterci la faccia, di metterci i corpi pure. E quindi niente, di lì è nato il movimento, ad ora sono 6 anni credo, che 5 anni, una cosa del genere, che è nato il suo movimento in Italia. Siamo molto presenti sia all'interno delle lotte territoriali, ma anche nella questione internazionalista, tipo la questione Mapuche, la questione curda. Siamo presenti alle manifestazioni facendo attivismo poetico, distribuendo poesie, declamandole anche al microfono. Insomma, stiamo cercando di inserire proprio la poesia nel dibattito politico italiano. Questa è un po' la storia, diciamo, sì, del movimento. Non mi pare poco. E senti, e invece allora raccontaci poi il passo successivo, come nasce appunto di questo festival, che tra l'altro vedo molto interessante, ci sarà anche una battaglia tra poeti, insomma, notevole, sarà una bella giornata. Sì, allora innanzitutto sono 6 giorni di festival ed è proprio questo proprio della serie, magari anche figlio di tutto il tempo, no, che non si è potuto organizzare iniziative pubbliche, poi comunque la caserma, l'ex caserma liberata di Bari, si riescono a fare le cose all'aperto, quindi permette anche di fare un certo tipo di eventi che, ricordiamo, sono, sì, avete degli spazi enormi, presentazioni, sì, sono dibattiti, presentazioni, cose un po' più teatralizzate, quindi molto d'ascolto. Quindi comunque sono 6 date, di cui 4 esterne in giro per la città e 2 nell'ex caserma. Le 4 esterne perché sono coinvolti quelli che sono dei piccoli avamposti del movimento nella città. Comunque luoghi solidari, frequentati da compagni e da compagne, da sempre comunque solidari anche verso le lotte. E niente, io quest'anno ho voluto coinvolgere anche loro in questo festival. Sicuramente sono rappresentate molte realtà pugliesi che si occupano di poesia, perché quest'anno io volevo che il festival fosse anche un megafono per riuscire a dar voce a tutti quelli che si occupano di poesia, che è molto difficile. È molto difficile andare avanti, riuscire a organizzare le cose, far sì che la gente venga anche alle iniziative. Insomma, io capisco quali sono le difficoltà, quindi volevo che quest'anno l'edizione del festival fosse un megafono per tutti. Un po' un segnale di ripresa anche. Come? Un segnale di ripresa. Sì, anche come segnale di ripresa, infatti c'è, cioè, anche come segnale di ripresa, perché cioè, comunque dobbiamo capire il modo per continuare a fare attivismo politico e artistico, cioè, poi molte delle persone, comunque noi non siamo stati fermi nemmeno durante il lockdown, perché abbiamo messo su una campagna di solidarietà che consisteva nel inviare libri di poesia del movimento gratis, il PDF tramite mail, a chi non poteva permettersi libri o non aveva i mezzi tecnici per comprare un libro attraverso internet, visto che le librerie erano chiuse, e quindi addirittura se uno non aveva, cioè, un libro di poesia, ma aveva poesie sparse, lui ci inviava questa persona ci inviava le poesie, noi gli editavamo noi il libro per far sì che venisse diffusa appunto la poesia. E infatti sono felicissimo di dire che la maggior parte dei poeti presenti, e con poeti intendo anche poeti donne, presenti all'edizione del festival quest'anno, sono tutti coloro che hanno donato i propri libri e le proprie poesie in favore del popolo, diciamo. Questa è una cosa che mi ha reso veramente orgoglioso di collaborare con queste persone. Nessuno di loro ha pensato al diritto d'autore o alla paternità dei propri scritti, o cioè non ci ha pensato due secondi quando ho proposto questa cosa all'interno del movimento, ma è una cosa che mi ha reso molto felice e orgoglioso. Il sapere, la propria produzione, mantenerli condivisi, insomma, accessibili a chiunque. Sì, sì, accessibili a chiunque, ci dovevano solo inviare una mail. Grande. E noi gli inviamo i libri, e quanti ne volevano, cioè non c'era nemmeno limite a quanti libri si potessero richiedere. Appunto, quindi questa quarta edizione del festival, io comunque lo ribadisco sempre, in realtà il festival, tra le varie pratiche del nostro movimento, forse è quella meno importante. Cioè la motivazione per cui viene fatto il festival è quella di far compassare il movimento poetico, visto che siamo sparpagliati in tutta Italia, e anche, cioè, di farci conoscere tra di noi personalmente, che non rimanga una conoscenza soltanto online, e poi attraverso queste conoscenze, questi contatti, questi incroci, nascono nuove idee, nascono nuove collaborazioni, come è accaduto ad ogni edizione, perché in realtà le pratiche importanti del nostro movimento sono quelle di stare per le strade, stare nei contesti di lotta, stare sulle barricate con le poesie, fare installazioni, fare anche azioni, riempire le città di poesie, essere presenti, come dicevo anche prima, all'interno delle manifestazioni con la distribuzione appunto di volantini poetici che parlano di quella lotta specifica che riguarda quella manifestazione. E quindi niente, siamo giunti a questa quarta edizione del festival. Che è un po' una ripartenza anche per il posto, l'ex caserma liberata. Infatti questo weekend abbiamo il Malafem. Esatto, bellissimo evento. Festival di genere molto importante organizzato dalle compagne, che è un festival itinerante. Quest'anno per fortuna hanno deciso di farlo da noi a Bari. Quindi che abbiamo il 26 e 27 abbiamo il Malafem. Poi a seguire c'è il Festival di Poesia. E poi a fine ottobre abbiamo un altro festival di teatro che è dedicato a Vittorio Cosentino, un compagno scomparso, ahimè, proprio all'interno dell'ex caserma durante il periodo della quarantena. Non siamo riusciti a fargli un omaggio, un funerale come si deve, un saluto come si deve. Lui è stato un grande attore, un grande regista, tra i fondatori del teatro Kismet di Bari, ha girato in tutta Europa. Quindi lo vogliamo omaggiare con un festival di teatro a lui dedicato che faremo il 30 ottobre. Sì, perché ricordiamolo che il festival di poesia inizia il 29 settembre, il 29 appunto, che è martedì, ma si snocciola durante tutta la settimana fino a sabato, sì. No? Fino a domenica 4. Ah, fino a domenica, scusa, sì. Esatto. Questa edizione del festival è dedicata a Moreno. Esatto, questo te lo stavo per dire. La dedica a Moreno, che è un compagno che anche lui, insomma, vi ha lasciato un poco tempo fa, giusto? Sì, sì, un poeta di strada, un artista, un rapper, un compagno, soprattutto un amico, cioè un amico del, cioè mio personale, ma del collettivo. Lui doveva essere l'ospite musicale di questo festival, perché ogni festival ha un ospite musicale, che sia più musica che teatro o dibattito o altro, e quest'anno doveva essere lui. Tutti e tutte insieme faremo sì che lui ci sia su quel palco. Non ne dubito. Il sabato sera del festival c'è appunto l'ultima parte della giornata, e omaggio a Moreno. E poi a proposito di musica, leggo anche che appunto il ricavato di questo lungo festival, con un incontro anche col comitato in sostegno, sarà per il gruppo Yorum, appunto, no? So che anche in Puglia c'è stato il grandissimo Padri che ha fatto, sì, un appoggio enorme, una campagna enorme di sostegno al gruppo Yorum. Sì, sì, perché comunque un'altra caratteristica del festival è che ogni anno è benefit per una causa che riguarda una questione sì repressiva, ma che sia di repressione nei confronti dei poeti, degli artisti, diciamo più specifica, in quanto festival di poesia cerchiamo di rimanere nell'ambito della repressione. Ad esempio la scorsa edizione era benefit per Ashraf Fayyad, poeta palestinese condannato a morte, incarcerato per un libro che ha pubblicato in Arabia Saudita. Quest'anno il benefit anche con una cena, con una lotteria, una rissa, no, che faremo, è per Yorum Group. Speriamo che comunque di aver, cioè, al di là del benefit, già col fatto che c'è scritto nell'evento e quant'altro, di essere riusciti a portare un po' più di luce, anche a dare un po' più di spazio nel dibattito. Magari uno se lo legge e dice: no, ma chi sono questi, che si va a leggere la storia, no? Certo. E capisce qual è la gravità della faccenda. Sì, quindi facciamo il benefit. Poi, cioè, ci sono, come ogni anno, ci sono dei macro temi, come ogni edizione, perché in realtà non lo facciamo ogni anno il festival. Ci sono dei macro temi che quest'anno sono solidarietà, antifascismo e rivoluzione, che sono proprio figli del periodo che stiamo vivendo. È veramente una risposta a quella che è la deriva della società che sta prendendo in Italia, e non solo in Italia. Però ci sono rappresentati un bel po' di argomenti. Infatti presentiamo una bellissima antologia che si intitola La nostra classe sepolta, che parla appunto della cronache poetiche dei mondi del lavoro, che è un progetto, un lavoro molto interessante di Pietro Vive di Ori, che vede come curatrice Valeria Raimondi. Appunto parla della questione lavorativa oggi, cioè, quindi sì, una lotta operaia, ma non legata a quello che fu il ricordo, no, della lotta operaia in Italia, ma della situazione appunto della lotta operaia oggi. C'è il lavoro sempre più parcellizzato, ora hanno fatto questa scoperta che si può lavorare anche da casa, quindi non c'è limite allo sfruttamento del padrone nei confronti dello schiavo, ti raggiunge fin dentro il letto di casa. Insomma, sarà un bel dibattito interessante. Scenderanno al festival alcune dei poeti che hanno contribuito alla scrittura di questa antologia, in cui ci sono anche dei miei versi. Ci sarà un laboratorio a cura dell'associazione Alauda, curato da Iula Marzulli, che è un laboratorio sulle corporeo poetico, sulle poesie di lotta nella storia, cioè i grandi poeti militanti della storia. Ci sarà questo laboratorio. C'è anche la questione, c'è una piccola parte anche antisessista, con una compagna che si chiama Maria Grosso, che viene da Salerno e porta proprio una performance poetica che riguarda proprio l'ambito di genere. C'è un poeta, Giovanni Canzonieri, che è un gran compagno anarchico siciliano che vive a Parma, credo, che lui le leggerà in dialetto siciliano le cose, noi le proietteremo in italiano, verranno proiettate con la traduzione in italiano, che è un gran, cioè, scrive veramente bene, i suoi argomenti sono sempre molto validi, puntuali. Simone Cumbo, un altro degli ospiti di questo festival. E questo è soltanto il primo giorno, poi c'è tutta la seconda giornata. No, infatti, se ci smettiamo a snocciolare veramente. Comunque io direi che allora, invece di leggerlo tutto, ricordiamo dove si può trovare, appunto, c'è l'evento su Facebook del festival, ricordiamolo, potete andare sia sul sito della caserma, su Facebook, la pagina del Brigate Poeti Rivoluzionario, la pagina dell'ex caserma liberata, sta su un altro portale di eventi che si chiama Il Tacco di Bacco, quindi per chi non utilizzasse Facebook basta digitare il nome del festival, comunque gli esce anche sul web, su altri portali che si utilizzano per la promozione degli eventi. E niente, sicuramente ci sarà da divertirsi. Eh sì, io non potrò scendere, ma insomma sarò curiosa, poi ci possiamo anche risentire per sapere come va. Faremo sicuramente un sacco di video e di foto. Va bene, quindi noi invitiamo intanto quindi... a chi vuole andare a Bari a farsi questo giretto, all'ex caserma, così c'è anche il mare, quindi consiglio sempre. Poi da noi è ancora estate, quindi... Ecco appunto. E soprattutto, insomma, ecco, diciamo, in un mondo che legge sempre meno, dai, poesia, no? Un po'. Così, sì, certo. Un invito a rioccuparsi anche della poesia, a tornare a farne anche... così, di fare anche di quest'arte, farne un mezzo per dire tante che, cose, insomma, per stare nelle lotte. In realtà, cioè, per come diciamo uno dei motti del movimento è che la poesia è un'arma e il poeta è un combattente. In realtà, cioè, noi di base siamo compagni militanti che utilizziamo per lottare la pratica della poesia e non il contrario. Mi sembra un'ottima conclusione questa, Pippo. Io ti ringrazio tantissimo, allora, un enorme in bocca al lupo per questo festival, un abbraccio a tutta l'ex caserma e ci sentiamo presto. Certo. Bene, ciao, dai, un abbraccio forte. Ciao. Ciao. Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici, será mejor que trates mejor esa bici. Le 18.55, dunque questa era la presentazione di quello che sarà la quarta edizione del Festival Internazionalista della Poesia Rivoluzionaria, che si terrà all'ex caserma, lo ricordiamo, dal 29 al 4 ottobre. Experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo.